Tempo di Sport con Carlo Genta. Faccio passare un altro avversario, tiro un po' la gamba e via. Marco a zona, sto mercenario, scommetto cosa vuoi che sia. Non sono il solo, ovunque vai potrai vedere in giro dei compagni miei. Io vendo desideri e speranze in confezione SNAI. I zingari con Rossi e Belmonte, Doni, Paoloni e Malavita. Siamo tanti, sempre alta la fronte, tanto in galera non ci andiamo. E se ti beccano tu puoi pentirti e dire che... Ragazzi, ogni estate ha le sue hit, protagonisti della classifica, sempre loro ormai da due stagioni. Basette Gol, quest'anno è Mi Vendo, l'inno dell'estate, con uscita assolutamente tempestiva oggi. Dopo il Puoi puntare di più che vi ho fatto sentire l'anno scorso. So che qualcuno era l'orticaria, ma non me ne importa nulla. A me piace, mi diverto. Grandissimi Basette Gol. 800 24 00 24, numero verde per voi. Messaggi 349-238-6666. Altri numeri. 13 le società deferite alla commissione disciplinare, 45 tesserati nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse. Relativa ai finoni di indagine delle procure di Cremona e Bari. Dunque, l'avete sentito anche nel giornale radio, è notizia di questa mattina, c'è Conte deferito per omessa denuncia, tra questi, con questa, tra gli juventini, sempre con lo stesso capo di accusa, c'è anche Pepe per una lontana gara in cui giocava nell'Udinese. Mentre particolarmente pericolosa è la posizione di Leonardo Bonucci, reduce dalla stagione migliore della sua carriera, europeo compreso, deferito per illecito sportivo insieme ai due Masiello, Guberti, Belmonte, Portanova, Parisi, Vives, Marco Rossi, Bentivoglio, il presidente del Lecce Semeraro, e forse ne dimentico qualcuno di minore. Mi scuso con i diretti interessati, naturalmente, deferiti per illecito sportivo. Saluto e ringrazio Gianluca Ferraris, collega di Panorama e autore di un libro, Gioco Sporco, che pure è stato tra le hit e magari ne è in preparazione un altro. Ciao Gianluca. Buongiorno a voi. Allora, deferimenti, 1 agosto comincia il processo, in cui entra anche la Juventus, in cui entra anche la Juventus con Conte, che ha questo capo di imputazione, tra virgolette, minore dell'omessa denuncia. Ma toglimi subito una curiosità, perché io poco capisco. Vuol dire che viene a crollare tutta quella storiella del discorso di Conte davanti all'intera truppa, raccattapalle compresi, questa partita è stata sistemata, eccetera, eccetera. Quella non vale più? In qualche modo sì, diciamo che almeno a quanto si legge nei provvedimenti di deferimento, è stato ritenuto attendibile Carobbio, quindi il principale pentito che chiamava in casa Conte, però è stata molto limitata la portata delle presunte parole di Conte all'interno dello spogliatoio. Ricordiamo che già in precedenza esistevano tre versioni diverse del discorsetto che Conte avrebbe fatto alla truppa. Diciamo che si è optato, Palazzi, il procuratore federale, ha optato per il carico meno pesante. Il capo di imputazione infatti non parla più di illecito sportivo come all'inizio si era ipotizzato, sì, ma solo di omessa denuncia. Secondo la Procura federale, insomma, il tecnico bianconero non è stato protagonista diretto della combine, né ha provato a interferire con il risultato della partita, ma ne è stato solo testimone passivo, evitando poi però di denunciarlo alle autorità. D'altra parte, ti posso confessare, lo dicevo anche ieri, questa storia io l'ho sempre trovata molto poco credibile. Perché? Perché se un allenatore si sputtare in quel modo davanti all'intero spogliatoio e a tutti quelli che lo frequentano e lo abitano, o è un idiota totale, oppure vuol dire che si tratta di una pratica normale che si fa, che tutti gli allenatori grosso modo fanno, e in questo secondo caso vengono davvero i brividi. Sono d'accordo. Credo che questo discorso discorso che facevi tu faccia parte integrante anche di quella che sarà la linea difensiva che Conte terrà al processo, cioè il fatto che sia stato equivocato un discorso di fine stagione, giocate tranquilli, giocate senza timori, e che questo sia stato equivocato da qualcuno. Poi dovremo stabilire se in maniera fraudolenta o no. Questo farà parte della linea difensiva se si arriverà davvero a un processo, perché comunque l'ipotesi verso cui i vicini alla Juve spingono in questo momento è quella del patteggiamento. Sì, del patteggiamento per tutti e tre, quindi Conte, Pepe e Bonucci, cui posizione molto più grave. Soltanto di Conte. Di Conte. Pepe potrebbe esserci un procedimento analogo, mentre la posizione di Bonucci è diversa e decisamente più seria. Ecco, parliamo della posizione di Bonucci allora. Ecco, per Bonucci, a differenza degli altri, la procura ipotizza un illecito sportivo. Cioè, secondo l'accusa, e questo è scritto chiaramente nel capo di deferimento, il centrale della Juve, all'epoca in cui giocava nel Bari, ricordiamolo, siamo a 3 stagioni fa, avrebbe avuto un ruolo attivo nella combine di Udinese-Bari 3-3, che poi è la stessa gara per cui è coinvolto, ma solo per omessa denuncia, Simone Pepe. Sì. In questo caso, in caso di condanna, Bonucci rischia uno stop da 1 a 3 anni. Sì. Quindi molto importante. Sì. Il fatto che ci siano molte partite di fine stagione, specie ora che abbiamo dei campionati formato monster pieni di squadra, ci siano delle partite di fine stagione che siano una cosa puzzolente da morire, è nota dalla notte dei tempi, no? Certo. E quindi o facciamo finta di nulla o facciamo i maliziosi a oltranza e davanti a ogni passaggio sbagliato ci mettiamo a strillare. Quindi questo è chiaro. È altrettanto evidente, mi pare, che però ci sono in giro degli idioti che per noia o per cercare qualche divertimento, loro che possono permettersi ogni vizio, rischiano di rovinarsi delle carriere. E se così fosse, hanno quel che si meritano. Sono d'accordo anche su questo. Abbiamo avuto già diversi esempi per quanto riguarda la prima e la seconda tranche dei deferimenti rispetto a quello cui facevi menzione te. Diventa davvero, davvero preoccupante se questi comportamenti sono davvero così diffusi e generalizzati. Sì. Come valuti l'operato di Palazzi in questa situazione? Ma mi pare buono. Palazzi ricordiamo che lui agisce a ruota di quello che arriva dalle diverse procure, ed è anche questo uno dei motivi per cui anche questa tranche di giudizio sarà divisa in due filoni. Il primo verrà discusso l'1 e il 2 agosto, e il secondo, che è quello che vaglia le carte arrivate dalla procura di Bari e che coinvolge anche la Sampdoria, verrà discusso il 3-4 agosto. Sì. Ha lavorato sotto traccia. Palazzi ha cercato di sfruttare al meglio l'istituto della collaborazione, che è stato varato di recente, e ha quasi sempre chiesto il massimo delle pene in fase di deferimento. Sì, quindi le sentenze le aspettiamo per quando? Le sentenze dovrebbero arrivare senz'altro prima di Ferragosto, anche perché i tempi sono stati accorciati al massimo. Ci sono 5 giorni comprese le domeniche per le difese, per presentare le proprie controdeduzioni. Sì. Si va a giudizio nei primi giorni di agosto e le sentenze dovrebbero arrivare a stretto giro. Anzi, non è neppure escluso che arrivino nel giro di 1 o 2 giorni dai dibattimenti. Sì. Per chiudere, dobbiamo aspettarci dell'altro? Cioè, si era parlato di molte altre partite, di molte altre squadre, si era parlato dell'Inter, si era parlato di molti altri nomi e di molte altre cose. Sono sempre impigliati in vari filoni a Bari o a Cremona, o quello è tutto no, sistemato? No, non più di tanto. No. Il procuratore capo di Cremona, Di Martino, ha detto chiaramente che c'è stata l'esigenza di mettere un punto sull'inchiesta, quindi sì, non credo che da Cremona arriveranno altri incartamenti. Finora è rimasto fuori da questi fascicoli di indagine soltanto quanto successo nella famosa partita Lazio-Genoa, che poi è uno degli architravi del processo di Cremona, e nella partita Napoli-Samp, perché arriva da un altro incartamento, che è quello del pool reati da stadio di Napoli, che indaga su tentativi di combine, vede imputato Gianello, l'ex terzo portiere. Sì. Quindi per quelli c'è ancora da attendere. Esatto, ma qui probabilmente si arriverà a campionato in corso, e lì poi bisognerà vedere se ci saranno delle sanzioni erogate, se saranno afflittive o meno. Vabbè, è ancora tutto lì da decidere, anche se ormai le linee guida sono piuttosto chiare. Gianluca, ti ringrazio. Grazie a voi. Messaggi SMS, si va da cose di questo tipo: giustizia sportiva e giustizialismo, cosa da Pol Pot, da Stalin, e voi giornalisti perché ci sguazzate e difendete ad oltranza. Dalla parte opposta, Mauro che scrive: tutti radiati per pulire il calcio. Insomma, bianco o nero, posizioni intermedie non ce ne sono, almeno per qualche ascoltatore. Mi domandavano via SMS l'elenco delle società che sono state deferite. Allora, per responsabilità diretta, quindi particolarmente grave, la posizione del Lecce e del Grosseto, abbiamo detto prima del presidente del Lecce Semeraro che è pure stato deferito per illecito sportivo, mentre a titolo di responsabilità oggettiva sono state deferite Ancona, Siena, Novara, Torino, Varese, Albino Leffe, Bari, Udinese, Portogruaro, Sampdoria e Bologna. Questo l'elenco delle società deferite. Responsabilità oggettiva, questa specie di quello che io considero un mostro giuridico dal punto di vista proprio legale, perché è qualcosa di che non mi piace, che considero sbagliato almeno dal mio punto di vista, salvo alcune rarissime eccezioni, e ritengo che questa sia una eccezione, perché l'ho detto molte volte, la mia posizione è questa: tu società, se non sai ciò che accade in casa tua, ciò che i tuoi tesserati stanno combinando o commettendo con organizzazioni professionistiche, quali sono le società di calcio di Serie A e di Serie B, ecco, se tu non sai nulla mentre tutti gli altri sanno, mentre centinaia di persone sanno, se tu non sai cosa accade in quello spogliatoio, ebbene una responsabilità ce l'hai, chiamala oggettiva, chiamala bianca, verde o blu, una responsabilità ce l'hai. Quindi in questo caso quel mostro giuridico che è la responsabilità oggettiva, secondo me trova, magari in maniera un po' collaterale, una corretta applicazione. 800 24 00 24, Carlo da Milano e Gianluca dalla Spezia, i primi due. Carlo. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno. Niente, io praticamente sono un po' contrario ai riferimenti da un punto di vista del non far giocare il calciatore. Sarei più favorevole magari a lavorare su quelli che sono i propri introiti, per esempio gli ultimi stipendi, gli ultimi due anni. Cioè, togliamo i soldi a queste persone, probabilmente l'effetto sarà migliore. Lei quindi andrebbe su una sanzione pecuniaria più morbida, perché, perché è chiaro. Pesante, mi scusi. Ho capito, sì. Carlo, pesante, però gli lasciamo comunque lo strumento per continuare a lavorare. È chiaro che la sanzione pecuniaria è pesante, sarebbe molto afflittiva. Però mantieni in vita sportivamente un giocatore, se gli dai 3 anni di squalifica è una specie di ergastolo per un giocatore, quindi non lo so, ci si può ragionare sopra, certamente l'idea di toccare costoro nel portafoglio, visto quanto sono ingordi, non è del tutto sbagliata. È anche vero che lasciar giocare uno che ha truccato una partita e gli senti, ci paghi tanti soldi e dimentichiamo tutto, puoi andare avanti a firmare i tuoi contratti milionari, eccetera, eccetera. Gianluca, La Spezia. Veloce un paio di argomenti. Il primo è, in America qualche anno fa hanno sospeso un campionato di baseball per un anno, in seguito proprio a giocatori che si vendevano partite. Il baseball per gli americani forse di più del calcio per gli italiani. Non è successo niente, dopo un anno hanno ricominciato a giocare, non è morto nessuno di fame, cosa che qualcuno ha paventato. Quindi lei è della linea lei è della linea di Monti? Io sono della linea di Monti, ora lui parlava di più anni, io credo che un anno sarebbe più che sufficiente. E un'altra proposta è il fatto che sicuramente il magazziniere o colui che vende le magliette fuori dallo stadio, giustamente un anno senza stipendio, dovrebbero pagare tutte le società. Beh, ma magari quello che vende le magliette taroccate fuori dallo stadio... Taroccate no, magari no, però insomma, ci sono anche i Juve Point. Ah, va bene, ok. Point. Stiamo parlando di merchandising autorizzato. Mentre diciamo tutto l'indotto illegale subirebbe una bella mazzata e questo sarebbe un effetto positivo, ma stiamo divagando. Dica Gianluca. Risparmierebbero gli ingaggi dei giocatori, potrebbero farsi carico di questo, del magazziniere. Senta, che ma in quell'anno in quell'anno sabbatico che cosa si fa intanto? Ci si ferma e basta o secondo lei si deve fare qualche cosa e che cosa? Si ferma, si ripulisce, in un anno le cose sicuramente si fanno molto meglio che rispetto a entro il 15 d'agosto bisogna finire, quindi bisogna anche i tempi molto stretti fanno sì che tante cose non verranno a galla, un po' anche perché 7 giocatori, sicuramente qualche società pagherà per fare in modo che per qualche allenatore. Quindi durante un anno le cose sicuramente si possono ripulire in maniera migliore che velocemente come stanno facendo adesso. Ma velocemente ricordiamo però che la giustizia corre su due binari diversi, quella sportiva e quella ordinaria, che mentre la giustizia sportiva ci sono questi tempi e ci sono questi procedimenti che sono per forza di cose sommari e basati su prove che sono quelle al momento raccolte, la giustizia ordinaria è molto più lenta, richiede molto più di un anno e porta a conclusioni diverse. Quindi non dimentichiamo mai che ci sono questi due binari che corrono, che non sono paralleli ma sono entrambi esistenti. Francesco, Firenze. Salve signor Genta, salve. Ti faccio fare complimenti per la conduzione del programma che tocca a tanti sport e il tempo vola. Sì. Senta, io Poi ne abbiamo anche per il basket, lo sa che ne abbiamo anche per il basket oggi. No, ma non ne abbiamo anche per il basket, perché anche lì c'è, vale il ritornello di prima. Te lo faccio riascoltare, il ritornello di prima, solo il ritornello. La passione che tu hai, in cambio del tuo inferno, gioco le quote. E poi parliamo di, anche oggi, parliamo di quanto compare su, ad esempio, Gazzetta, Corriere, vari media. Sul Corriere della Sera firma Werther Pedrazzi, che poi sarà nostro ospite. Intercettazioni sotto canestro, arbitri favorevoli a Siena, Milano presenta un esposto. Quindi ne abbiamo per tutti oggi. Io avevo proposto un pezzo di film tutti dentro, ma Franco Piantani da oggi non mi ha dato retta. Pazienza. Francesco, dica. Quest'estate questa canzone si sentirà spesso. Sì. Senta, io volevo parlare un attimo di Inzaghi di ieri. Volevo fare complimenti. Quando un uomo di 39 anni ha vinto tutto, un calciatore, sembra ancora un ragazzo, ha uno spirito incredibile. Le volevo buttare una curiosità. Chissà se in questo calcio di oggi i giocatori... Nel 2012 nessuno ha pensato di clonare lo spirito di Inzaghi, che veramente rimane sembra una persona veramente... Ma sa qual è, lei ha ragione da vendere, sa qual è il segreto di Pippo Inzaghi? Lo sa? Che non è la storia del riso alla Bresaola, questo insomma è professionista, quindi si è mantenuto a lungo. Ma questo perché? Perché è uno che ama visceralmente il gioco del calcio, è uno che... respira calcio, è uno che ha una passione tale per cui non può star lontano e non potrà mai star lontano da quel pallone. In questo mi ricorda Inzaghi, ricorda Beckham, e Beckham ricorda Inzaghi. Anche il tanto spernacchiato David Beckham, lasciato fuori dalla nazionale britannica a queste Olimpiadi, per me in modo stupido e pretestuoso, è un giocatore che ama a tal punto il suo lavoro da aver mantenuto comunque una dignitosa o grandissima, fate voi a seconda dei gusti, carriera, nonostante l'età, nonostante gli infortuni. E soprattutto, che mi ha colpito sempre di David Beckham, è l'attaccamento ossessivo alla maglia nazionale del suo paese. In questo sono molto simili Inzaghi e Beckham, non trovate? 800 24 00 24, il numero verde. Naturalmente anche oggi parleremo non solo di malaffare ma anche di Olympic Games, perché ormai ci siamo con Villaggio Olimpico Italiano aperto, con la cena di cui sentivate anche prima nel giornale radio di Napolitano con gli azzurri. Domani cerimonia di apertura, ha parlato il premier britannico David Cameron, dicendo cose del tipo: credo che questo di oggi sia il più grande summit economico in chiave olimpica che sia mai stato organizzato. Così ha aperto David Cameron l'inaugurazione dei Giochi di Londra, ha aperto la Global Investment Conference. Il mio compito è fare tutto quello che posso per assicurare investimenti e affari che aiutino il mondo a tornare in crescita economica sostenibile. Credo che l'eredità olimpica sia molto di più che grande sport. Questo ha detto Cameron. Poi domani cerimonia di apertura e poi saranno subito in pista e in campo azzurri importantissimi, con domenica sarà una giornata campale per l'Italia del nuoto. Marcello, provincia di Potenza, buongiorno. Sì, buongiorno. complimenti per la trasmissione. Grazie. Una riflessione sul discorso dei ferimenti. Io sono della parte del nero, quindi questi signori o per poco o per tanto, o implicati 10, 20, 100, devono stare a casa, devono smettere, perché qui ci sono migliaia di persone che vanno allo stadio, fanno sacrifici, credono in un qualcosa, in questo momento particolare forse il calcio vuol dire anche liberarsi un attimo da quello. Quindi Marcello, sociale, mi faccio capire, lei è per punizioni draconiane del tipo la radiazione? Ma sì, perché questa gente non si merita assolutamente niente, come tante altre categorie in Italia, e anche loro, i calciatori e i professionisti, e gli allenatori e le società. Chiudiamoli i diritti sportivi, chiudiamoli il rubinetto dei soldi, come ai nostri politici, anche se divago, sicuramente qualcosa cambierà. Sono d'accordo con l'amico prima che ascoltavo sull'anno sabbatico, sicuramente sì. Io preferisco non andare allo stadio per farmi prendere in giro da questi signori milionari, ma magari dedicarmi più al sociale, dedicarmi più a questo, cose sì. Che sicuramente mi... Questo è un anno sabbatico volontario e può essere una grande idea, perché se uno non ci crede più, semplicemente schiaccia il bottone del telecomando e evita di comprare il biglietto dello stadio. Non osi paragonare Inzaghi a Beckham, chieda subito scusa a Super Pippo. Luca da Verona, non chiedo scusa a nessuno perché è quello che penso, quindi, e anzi mi sembra di aver detto una cosa bella anche per Pippo Inzaghi, cioè sono due giocatori molto bravi, molto famosi, che hanno fatto una grandissima carriera, che hanno vinto moltissimo e che sono animati dallo stesso ossessivo amore verso il calcio, verso il loro mestiere, ed è una cosa che a me piace molto. Qualche ascoltatore domanda che cosa rischia realisticamente Antonio Conte, allenatore della Juventus. Secondo me qualche mese di squalifica, perché si va verso un'ipotesi di patteggiamento. D'altra parte lo ha detto anche l'avvocato di Conte, Antonio De Rensis. Ora abbiamo uno scenario completamente ridimensionato, dice, che non deve far esultare o far considerare, ma deve far considerare da dove siamo partiti. Un conto è patteggiare davanti a un processo garantista, un altro è patteggiare davanti a un processo accusatorio come quello sportivo. Adesso valuteremo quale strada seguire tenendo conto di questo primo passo positivo. Dunque Conte, secondo me, rischia qualche mese di squalifica. Come dicevo, i guai non sono solo quelli del calcio. Vi ricordate quest'inverno, un giorno lontano, in cui un venerdì ci venne a trovare in Palaspicchi Sergio Scariolo, allenatore dell'Olimpia Milano, che aprì a sorpresa un vaso di Pandora? Qualche aspetto negativo invece? No, appunto, mi fermo qui, perché poi ce ne sono diverse altre, soprattutto questa aria un po' rancida. Aria rancida fece il giro delle agenzie, dei giornali, e nessuno capì bene allora cosa stava dietro questa velata, ma pesante, accusa di Sergio Scariolo. Oggi apro i giornali e leggo: intercettazioni sotto canestro, arbitri favorevoli a Siena, Milano esce allo scoperto, presenta un esposto, e già allora, con quell'aria, dietro quell'aria rancida, si parlava dell'esistenza di intercettazioni. Ne seguirono audizioni di Scariolo, poi di Livio Proli presso procuratore federale, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso il vaso di Pandora è stato, mi pare, aperto pubblicamente. Intercettazioni sotto canestro, arbitri favorevoli a Siena, Milano presenta un esposto, è il titolo dell'articolo di oggi sul Corriere di Werther Pedrazzi. Ciao Werther. Carissimo Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Eccoci qua. Vuoi che ti faccia sentire la canzoncina? Quale? Questa. Diverso, la passione che vuoi, in cambio del tuo inferno, gioco le quote, sai. Mi vendo. Chi si vende in questo caso? Intanto grande Renato e... Più che altro sono basette gol, parodia del mi vendo del grande Renato Zero. Mi vendo. Cioè, chi si vende e chi si compra. E l'aria è un pochettino effettivamente... Non dico rancida e né ammorbata, ma abbastanza confusa. Hai citato due volte il vaso di Pandora, sì, definitivamente si è scoperchiato, le intercettazioni sono imbarazzanti e anche contraddittorie, ci sono ex arbitri con ruoli attualmente dirigenziali che si dichiarano scandalosi, dichiarano scandalose certe cose, si dichiarano amareggiati, ci sono ammissioni sottolineate da sguaiate risate, devo dire, che fanno male nel dire mo te ne accorgi che c'è questo andazzo. Io credo che l'essere venuto alla luce di pubblico dominio, essere venuto in possesso i giornali delle trascrizioni della polizia giudiziaria segni un punto di non ritorno, nel senso che io, irriducibile ottimista, credo che dopo questo si farà piazza pulita nel basket, dove forse è anche più facile del calcio, non lo so, ma presumo si farà piazza pulita. C'è una generazione di dirigenti che indubbiamente si è strinata le penne, che si è bruciata e che forse, mi auguro, si ripartirà tirando proprio una riga e in fondo reinserendo un concetto molto molto semplice, quello che tutti andiamo cercando da sempre, che in Italia sembra così difficile da praticare, ovvero quello della meritocrazia e non delle parrocchie. Ci sono tantissimi nomi in queste intercettazioni, io personalmente ho scelto di non farli, coloro i quali non sono comunque indagati, e c'è un problema tecnico che secondo me è il punto cruciale. Posso, Carlo? Certo, devi. Allora, il problema tecnico è che c'è stata una denuncia, brevissimamente, di un arbitro retrocesso, a suo parere ingiustamente, che ha fatto venire a galla un sistema di valutazioni da parte dei commissari speciali e che ha fatto così disegnare, uso un termine forse un po' forte, ha fatto disegnare una specie di cupola, no? Da quello famoso processo di Reggio Calabria, sì, che i media hanno ribattezzato Basketopoli. Sono partite delle intercettazioni telefoniche, no? Durante la fase istruttoria. Ecco, in queste intercettazioni sono saltate fuori voci appartenenti ai vertici del basket, perché tutto sembrava limitato alla Serie B e alla Serie C. Sono saltate fuori le voci di pubblico dominio, insomma, del presidente di Siena, è saltato fuori la voce, peraltro questo non è più indagato ma è accusato al processo, del presidente dell'allora CIA e degli altri componenti dei responsabili dei commissari. Sono saltate fuori CIA, Commissione Italiana Arbitri, ricordiamo. Esattamente. Ora, tutte queste voci però al procuratore di Reggio Calabria, che aveva istruito il processo per le false, diciamo così, classifiche arbitrali che non rispettavano il merito, ma chi era amico o nemico, chi favoriva o non favoriva certe società di PEC, ribadisco, queste cose che sono venute fuori non possono essere stralciate perché non fanno parte di quell'inchiesta e di quel processo. Dunque, però esistono. E allora, la cosa che a me, in tutta onestà e forse da ingenuo o da peones, quale sempre mi ritengo, la cosa che a me ha fatto specie è perché, ed è il domandone che mi fa, perché la Procura federale, ovvero colui il quale è presupposto alla salvaguardia della giustizia sportiva, dell'etica dello sport, non ha mai aperto un'inchiesta su queste cose e si è dovuto aspettare l'esposto di Milano e quello che tu hai detto, la stura del vaso di Pandora e queste intercettazioni che... Sì, tu hai ragione, mentre Palazzi tempestivamente si interessa delle vicende di Cremona, delle vicende di Bari e poi le gestisce e risolve a modo suo, eccetera, eccetera, possiamo dire tutto quello che vogliamo sulla giustizia sportiva, è una forma di giustizia non perfetta, non precisa, ricordiamolo, è giustizia sportiva per l'appunto, però almeno lì anche questo, qualcosa anche si fa. I tifosi, il pubblico dovrebbero capire, sono soglie di reato completamente diverse. Esatto. La giustizia sportiva non è la giustizia penale. Se tu urli e insulti un arbitro, la giustizia penale non frega niente, non è reato, capito? La soglia è molto diversa. Che tu sia leale o sleale, se non, ma ci sono delle reato, cose che sono penalmente irrilevanti, ma sportivamente rilevanti. Esatto, sono soglie completamente diverse. Dunque, e in tutto questo c'è una contraddizione in termini, sempre a mio modestissimo parere. Quando la Procura la Federazione Italiana Pallacanestro si costituisce parte civile contro gli indagati nel processo, no, oggi sono accusati, non sono più indagati, nel processo di Reggio Calabria perché hanno arrecato un danno forte all'immagine della pallacanestro, e chiede più oltre la formula scritta, virgolettata, quella, oltre 1 milione di euro di indennizzo per il danno d'immagine subito dalla pallacanestro italiana. Io mi domando, in difesa di quella lealtà sportiva che rivendicano essere stata elusa, delusa e offesa, perché non hanno aperto un'inchiesta anche su queste cose? Certo, la tua domanda rimane senza risposta, ma io te ne faccio un'altra, Werther, sì, per finire per questa discussione. Fatalmente ci toccherà riprenderla in mano. Siena è sul banco degli imputati. Sì. Come si difenderà? Cosa rischia? Cosa possono dire? Cosa possono fare? Ma, Carlo, cosa succede? Fai una domanda che è da sfera di cristallo. Io credo che la difesa di Siena sarà una difesa tecnica dal punto di vista giuridico. Ora, tutto quello che oggi viene fuori è stato precedentemente archiviato, e quindi una cosa archiviata non è più passibile o suscettibile. Io credo che la difesa sarà soprattutto tecnica. Per il resto, sai, direttamente il presidente di Siena viene coinvolto in un'unica telefonata. Il resto sono arbitri, commissari, presidenti di CIA che parlano, e allora ognuno può dire quello che vuole, può dire anche una bugia. Lui direttamente viene coinvolta in un'unica intercettazione. Certo. E su quell'intercettazione mi sembra di aver capito che la linea difensiva sia, se vuoi, anche abbastanza solida, o comunque non ho strumenti giuridici perché se chiacchierano tra loro e Baldini dice consegnate, non li fate nemmeno giocare, consegnate lo scudetto a Siena, è vergognoso. Poi legalmente e tecnicamente è sempre un altro che parla, certo, non c'è dubbio, questo è importante assurda, dirlo, no? Questo è importante dirlo. Cosa è in quella telefonata dell'1:25 di notte in cui il presidente di Siena viene coinvolto, e lui sicuramente sosterrà il fatto che lui ha chiamato e telefonato i responsabili degli arbitri dopo aver visto il presidente di Roma Toti entrare, cosa che non potrebbe fare, entrare nello stanzino degli arbitri e urlare, e allora lui, in quanto presidente di Siena, per tutelare la sua società, chiedeva garanzie agli arbitri. Quindi io credo che sarà una difesa tecnica. Sì. Poi sai, tutti possiamo credere o non credere alle cose. È chiaro, però da quel punto di vista, Werther, io sono garantista in maniera assoluta, cioè il presidente di Roma non può e non deve entrare nello stanzino degli arbitri. Il presidente di Siena presidente di Siena non deve telefonare. Io l'ho visto entrare e ho voluto garanzie per la partita questo è mal costume, no? È questo mal costume per cui tutti parlano con tutti, mentre io mille volte ho ricordato a questi microfoni che da un punto di vista legale, ma se parliamo di legge sul serio e non di giustizia sportiva o altre cose, se il giudice parla con l'avvocato parte in causa di fatti della causa, quel processo è nullo. Questo dice il codice di procedura. Poi siamo nel mondo dello sport e allora sembra valere un po' tutto, ma io continuo a pensare che queste cose non debbano valere. Werther, ti ringrazio, ti abbraccio e ti do appuntamento ad un'altra volta. Grazie. Ragazzi, Sandro, se vi sintonizzate in ritardo, non è che io posso ripetere le cose 100 volte e ripartire sempre da zero. Mi sono sintonizzato solo ora di Conte, Bonucci e Pepe che si dice. Vabbè, riepilogo per l'ultima volta. Conte e Pepe deferiti per omessa denuncia, Bonucci a lui deferito per illecito sportivo. Questo è successo stamattina. Fabrizio Grosseto. Ciao, buonasera, ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Chiamo in merito ovviamente al deferimento della mia squadra, Grosseto, che è stata deferita per responsabilità diretta da parte di Palazzi. Ora, la nota che io volevo chiedere anche per farmi anche aiutare, pur essendo io un legale di professione, io chiedo questo: quale attendibilità possa essere data alle dichiarazioni di giocatori che hanno cambiato versione in tre interrogatori, hanno cambiato la versione su la questione riguarda la partita Grosseto, Ancona Grosseto per la precisione, finita 1-1, è stata cambiata 3 volte. Guardando tutte le varie ma guardi Fabrizio, lei ha ragione, c'è molto di anche molto di millantato, c'è molto di poco chiaro in tutto questo. Ora io non conosco le vicende precisamente le vicende a cui lei fa riferimento, perché i rivoli di questa indagine sono talmente estesi che è impossibile seguirli tutti, quindi io tenderei a prendere con il beneficio di inventario o con le pinze le dichiarazioni di questi presunti pentiti, ma mi pare che questo abbia fatto anche Palazzi, no? Perché quella versione di Conte che va nello spogliatoio e dice alla squadra tranquilli, comportiamoci così perché la partita è zottata, ebbene io non ci ho mai creduto, ma mi pare che non ci abbia creduto nemmeno il procuratore federale, altrimenti non sarebbe stata messa denuncia quella relativa all'allenatore della Juventus. Non considero così credibili in realtà questi pentiti che nuotano in una melma di millanteria nella quale comunque sono immersi questi processi, nella quale comunque è immersa tutta questa vicenda, perché è molto difficile, ma vale anche per il basket di cui stavamo parlando prima, distinguere la realtà dal millantato, dall'opinione personale, dalla battuta, è molto difficile. Capello, oggi presentato come allenatore della Russia, sono in Russia, non sono in Russia grazie all'aiuto di Berlusconi, dispiace aver saltato gli europei con l'Inghilterra, questo ha detto Capello all'atto della presentazione come nuovo CT russo. Massimo, Venezia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi sarebbe piaciuto parlare di basket, visto quello che avete detto, ma insomma magari un'altra volta. Quando chiamavo per le Olimpiadi, sì. Io ho 53 anni, il primo ricordo è del 68 televisivo, e ho saputo da voi, ascoltando voi, di questa polemica fra telecronisti delle varie emittenti. Sì. Io vieterei per legge costituzionale le telecronache, mi fate vedere lo schermo, è un rumore di fondo e fine. Ma è possibile ormai? Purtroppo, amando il calcio, non riesco a fare a meno di essere abbonato a una delle emittenti che fanno il calcio. Ma io sento dei cronisti che gridano numero anche quando si allacciano le scarpe. Sì, ma ha ragione, però non se la prenda troppo. Non se la prenda troppo. Se ti sto già guardando, è inutile che gridi numero, ti sto guardando. Se non ti sto guardando, non ti sento. E quindi, voglio dire, non li capisco. Quindi mi par di capire che lei domenica non guarderà la gara della Pellegrini commentata da Caressa. No, perché non sono abbonata a quella emittente, ma trovo veramente... Ma l'avrebbe guardata? No, perché insomma, sinceramente non mi interessa sentire qualcuno... Sentire chi urla, va bene. Sì, esatto, è quello, cioè... No, ripeto, poi le seconde ormai... voci pure nel calcio sono drammatiche. Guardi, io dico, ci sono in realtà anche molti bravi telecronisti che aggiungono un valore al prodotto, ce ne sono altri che nulla tolgono, nulla aggiungono, ce ne sono altri fastidiosi. Non stiamo qui a far categorie, anche perché non abbiamo tempo, però ad esempio vado su un grande classico, le telecronache di Clerici e Tommasi erano qualcosa di addirittura poetico e di imperdibile. Ce ne sono altre, Bragagna bravissimo a fare l'atletica, così come Nicola Ruggero, e lo scoprirete, è un grandissimo telecronista di atletica. Il telecronista che a me piace è quello che, se non è Clerici e Tommasi, è quello che ti aiuta a capire esattamente, a te telespettatore che non sei allo stadio, cosa sta succedendo lì, senza numeri da circo. Detto che, non, insomma, certe volte possono essere anche divertenti certi numeri da circo, senza esagerare. Dunque, parliamo di Olimpiadi e anche oggi vi raccontiamo qualche cosa, varie ed eventuali, per sport che magari, non fate finta di niente, conoscete poco. Dichiaro aperti i primi giochi aziendali e ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Alla squadra prima classificata non saranno concessi né premi, né inni, né onori, né coppe. Se vedete atleti darsi degli schiaffi in faccia da soli, percuotersi, digrignare i denti e annusare sali di carbonato di ammonio, non preoccupatevi, non stanno dando fuori di matto. Probabilmente provano a caricarsi prima del sollevamento pesi, dove la fase pre-gesto atletico è fondamentale per accumulare l'adrenalina necessaria a uno sforzo immane. Sono 8 le categorie di peso per gli uomini e 7 per le donne, e 2 i tipi di sollevamento in programma, uno dopo l'altro. Lo strappo, in cui l'alzata avviene con un movimento unico, e lo slancio, che prevede una pausa tra la fase di sollevamento iniziale e la posizione eretta finale. Perché un'alzata sia considerata valida, l'atleta deve bloccare i gomiti, richiudere le gambe e aspettare che 2 giudici su 3 segnalino la validità dell'esecuzione, sperando facciano il più in fretta possibile. Il gancio è il modo classico di afferrare il bilanciere, con il pollice che avvolge l'attrezzo chiuso strettamente da indice e medio. La difficoltà sta nel calcolare il momento esatto in cui posizionare il corpo sotto il bilanciere, prima dell'alzata finale. Se l'atleta ha troppa fretta, l'attrezzo gli cadrà sul petto. Se si addormenta, rischia di rompersi una spalla. I partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di sasso stritto, frazione di carbonia. E qui impiegati come muli da soma. Dario Ricci, a Londra, ciao. Sempre con questa minaccia di sasso scritto, caro. Stai attento a come ti comporti. Mi toccherà andare. Per il momento mi godo l'abbazia di Westminster, che si vede proprio da questa splendida location di Casa Italia, che è proprio nel cuore di Londra, e quindi finché c'è, godiamoci questa e poi prepariamo le valigie per altre destinazioni. Certo. Ultime da Londra quali sono? C'è qualche notizia da segnalare? Beh, direi che importante è la conferenza stampa di presentazione oggi qui della Spedizione Azzurra, quindi ha fatto riunione di casa il presidente Petrucci, segretario generale Pagnozzi, che hanno ribadito concetti già noti per molti aspetti, che sarà forse l'Olimpiade più difficile della storia, perché se non qua a Londra, ma sicuramente a Rio, ma staremo a vedere, si potrebbe toccare quota 100, 100 paesi medagliati nelle varie discipline. Quindi questo dall'idea di un campo di competitori che si allarga, certo, quadriennio dopo quadriennio. Ma è anche vero che è una nazionale interessante, questa azzurra, anche perché è quella che ingloba più talenti della generazione Balotelli, no? Sì, di quei campioncini nati, che cominciano a affacciarsi ora, prima e seconda generazione, nati magari sicuramente in Italia da coppie di immigrati, e che inevitabilmente ampliano anche la possibilità di allargare il bacino da cui pescare. Pensa che a livello juniores nel medagliere mondiale siamo al 7° posto, in quello olimpico invece a livello seniores 9°, cifre che confermano che il fatto che questa tendenza sta cambiando, e quindi c'è un passaggio generazionale interessante da seguire, a partire da Londra verso il futuro. E speriamo che queste notizie vengano confermate a Londra, perché sono un raggio di sole in una giornata come quella di oggi, in cui si è parlato di deferimenti e malaffare. Da domani, per fortuna, si parla tanto di Olimpiadi, perché ci siamo, si comincia, via. Grazie Dario Ricci. Grazie a te Carlo, grazie a tutti. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Mauro Comes in regia. Ci sentiamo domani alle 2 con A Tempo di Sport. Matteo Comes, mi correggo, Matteo Comes. Domani alle 2 con A Tempo di Sport. Ciao.